Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati, mi trovo nella bella Napoli. Sono qui perché voglio proporvi un giro per le regge della città, perché questa città, il centro e i suoi dintorni, ha un condensato di palazzi reali come raramente si trovano in Europa. E allora oggi cominciamo dal cuore della città, il Palazzo Reale, che si trova proprio nel centro storico della città, tra l'altro a ridosso del mare. E questo palazzo venne costruito dagli spagnoli sostanzialmente, quando all'inizio del Cinquecento la Spagna, passando sopra la dinastia degli Aragonesi, prese possesso del vicereame, e qui venne mandato appunto un viceré. Fu costruito un piccolo palazzo dedicato al viceré, e poi a un certo punto arrivò un'occasione straordinaria. Si diffuse la voce che re Filippo III di Spagna sarebbe venuto a fare una grande visita a Napoli. Quindi bisognava preparare in fretta e furia un palazzo per ospitarlo. Ecco che viene costruito questo grande edificio. Si chiama un architetto molto importante, allora era Domenico Fontano, un architetto importantissimo che era caduto in disgrazia presso il Papa, quindi era venuto a lavorare a Napoli. Questo realizza un palazzo colossale e, per ironia della sorte, il re a un certo punto decide di non fare la visita a Napoli, quindi ci si trova questo colossale edificio, ma il re destinatario non lo abiterà mai. Nei secoli il palazzo viene abbellito e ingrandito. Noi oggi lo visitiamo perché è diventato un museo. Qui si sono succedute le dinastie prima dei viceré, poi quando sono arrivati i Borboni con Carlo III, la famiglia dei Borboni fece proprio allestire gli appartamenti che ancora oggi noi possiamo visitare, tra l'altro con dei luoghi stupefacenti come il cosiddetto teatrino, che in realtà è gigantesco all'interno del palazzo, o l'intera chiesa che è stata costruita dentro il palazzo per le cerimonie della corte, la cosiddetta Cappella Palatina, con tutti gli appartamenti ovviamente. Uno dei luoghi più incantati è lo scalone, che naturalmente lascia tutti a bocca aperta perché le dimensioni sono colossali. È stato una delle ultime cose aggiunte, fu rifatto nell'Ottocento quando purtroppo un incendio fece bruciare una parte del palazzo e il vicino teatro di San Carlo, che appunto venne ricostruito nell'Ottocento e fa insieme al palazzo uno dei complessi più belli d'Italia.